Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, alcune informazioni di servizio. La prima è quella relativa al nostro sito, che è stato rinnovato, radio24.it. All'interno dello stesso potrete scaricare le puntate di tutte le trasmissioni quasi in tempo reale, oserei dire interloquire con i conduttori, soprattutto quando hanno un blog, come nel mio caso. Lo trovate sotto il profilo di Radio 24 oppure andando sull'homepage del Sole 24 Ore. Il blog, lo sapete, si chiama Guardie o Ladri. L'ultima informazione di servizio è quella relativa alla nostra posta elettronica, che è unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, a questa posta elettronica si è rivolto un nostro radioascoltatore milanese, Angelo Verderio, che ci sottopone un caso molto interessante. È vero che è personale, ma è anche vero che, come sempre amo dire e ripetere, è un caso che interessa ben più del singolo, e quindi le indicazioni che daremo partendo dal suo caso valgono ovviamente per una pluralità. Buongiorno Verderio. Buongiorno. Allora, il controcanto naturale, poi scoprirete perché, di Verderio, del suo caso, erano le poste italiane. Cercate, tempestate, di telefonate, mail, piccioni viaggiatori e quant'altro utile per raggiungerle, contattarle, ci hanno risposto picche, mandandoci una nota che poi sentiremo. Altro interlocutore, super partes, è Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Buongiorno Trefiletti. Sì, buongiorno. Vorrei leggermente rettificare. Più che super partes, io sono dalla parte del cittadino e dalla parte quasi di sicuro di Verderio. Ha ragione. Il super partes era, come dire, una nota di merito in più, dal momento che voi fate valere i diritti, e chi fa valere i diritti per mio... Per mia forma mentis, è comunque una persona super partes, perché il diritto deve essere al di sopra delle parti e il rispetto dello stesso. Nota di merito quindi in più per chi come lei li fa valere questi diritti. Verderio, ci racconti il suo caso. Allora, io sono titolare di una casella postale all'ufficio di Cordusio, quindi l'ufficio centrale di Milano, da alcuni anni. Verso il 15 dicembre noi riceviamo un avviso da parte delle poste per il rinnovo per l'anno successivo. Ogni anno io, una casella grande, normalmente pagavo 50 euro, intorno a quella cifra. Il 15 dicembre ricevo l'avviso di pagamento per il rinnovo e la cifra è lievitata da 50 euro a 200 euro. Quindi il quadruplo, in buona sostanza. Sì, il 300% praticamente. Sì, giusto, il 300%. Allora, la cosa mi ha lasciato un po' perplesso, scioccato più che perplesso. Allora ho fatto qualche telefonata all'ufficio centrale di Roma delle poste, non mi hanno saputo dare alcuna risposta. Vabbè, poi ci sono altre complicazioni che non dico, del tipo che se uno vuole lasciare la casella postale non può ricevere le lettere che riceve la casella postale in un altro indirizzo, tipo il servizio Seguimi, perché non hanno giacenze, per cui io ho deciso di disdire la casella. Ecco, lei quindi ha disdetto. Allora, noi abbiamo cercato le poste italiane, come dicevo, che altre volte hanno avuto il pregio di intervenire, questa volta hanno deciso di no, hanno mandato una nota che adesso sentirete insieme a me. In un mercato completamente liberalizzato e anche dopo l'adeguamento delle tariffe che scatterà a gennaio 2010, il servizio di casella postale offerto da Poste Italiane resta il più competitivo sia in termini di costi sia di servizi aggiuntivi tutto incluso, e soprattutto per diffusione e capillarità rispetto a quello proposto da altri operatori. Per questo il ritocco alle nostre tariffe, ferme dal 2005 già di gran lunga più basse rispetto a quelle offerte dai competitor, è motivato solo dall'esigenza di riallineare il nostro canone a quelli di mercato. Va poi ricordato che in questi ultimi mesi Poste Italiane ha ampliato l'offerta proponendo due nuovi servizi di corrispondenza diretti a privati, professionisti e imprese. Si tratta di Aspettami, con la quale il cittadino che dovesse assentarsi per un lungo periodo ha l'opportunità di far custodire la propria corrispondenza all'ufficio postale per poi ritirarla al suo ritorno in città, e Dimmi Quando, grazie al quale il cliente può ritirare la posta in un giorno prestabilito. Inoltre, per migliorare la sicurezza e l'efficienza delle consegne di raccomandate e posta tracciata, Poste Italiane ha da tempo introdotto il postino telematico, il portalettere dotato di palmare che porta a domicilio i servizi di recapito e pagamento. Poste Italiane gestisce 350.000 caselle postali, di cui 210.000 attualmente noleggiate a privati o aziende. Patrizia Lombardo, responsabile ufficio stampa Poste Italiane. Cari radioascoltatori, avete sentito la risposta che a me sembra tanto, come dire, preconfezionata. Basta andare a vedere che il comunicato che ci hanno mandato dice che l'adeguamento delle tariffe che scatterà a gennaio 2010. Beh, gennaio è passato da un pezzo. E poi questo comunicato stampa mi sa tanto ancora di, non è un comunicato stampa, questo nota che ci ha mandato, mi sa tanto sì di comunicato stampa preconfezionato, anche perché è tutta una pubblicità di questi servizi, aspettami, dimmi quando, sembrano titoli di film di Moccia o di canzoni strappalacrime di Baglioni, invece sono i nomi dei nuovi servizi di Poste Italiane. Allora, Verderio, mi dica un po' come commenta questa nota di Poste Italiane? Ma io ho una mia opinione personale, non so, la mia opinione è questa, che praticamente le poste si servono di noi che abbiamo la casella postale come una specie di campione, no? Numero limitato di persone su cui fare delle statistiche per vedere quante persone sono disposte ad accettare degli aumenti, in questo caso addirittura astronomico, no? Magari per poi applicarlo ad altri servizi, tipo aumentare i francobolli, il prezzo dei francobolli e via di seguito. Questo è, secondo me, è una specie di come si chiama, le cose a campione, no? Sì, di un sondaggio a campione, benissimo. Vediamo quanti lasciano la casella, quanti la mantengono, e in base a quello decideremo se aumentare, che so, i francobolli da 60 centesimi, che so. Ho capito perfettamente qual è la sua opinione, ed è una provocazione sicuramente. Allora, Trefiletti, ci commenti un po' lei quello che abbiamo sentito da parte del radioascoltatore e quello che abbiamo sentito da parte di Poste Italiane. Allora, il commento è presto detto. Questo è un caso tipico di abuso di posizione dominante. E poi riprenderò questo concetto per dire quello che abbiamo fatto. Poste Italiane non può nella maniera più assoluta fare un confronto con, diciamo così, servizi privatizzati, perché un conto è essere Poste Italiane, che è dappertutto e con determinati costi, ovviamente, perché è presente in tutto il territorio con gli uffici locali e via dicendo, mentre invece i privati non sono presenti dappertutto, hanno costi ovviamente maggiori e pongono un servizio anche differenziato. Quindi non significa assolutamente nulla questa giustificazione di comparazione con il servizio privato. Ecco, detto ciò, questo abuso di posizione dominante ha comportato, voi avete citato l'aumento da 50 euro a 200 euro, sì. Il caso che appunto si sta discutendo stamane, ma guardate che i casi sono più ampi, addirittura per la piccola casella postale, quello che potrebbe fare non un'impresa o un artigiano o che altro, ma un singolo cittadino, il costo è passato da 35 a 100 euro. Con praticamente una triplicazione dei costi. Quindi la cosa non va assolutamente bene. Noi abbiamo denunciato da un lato all'antitrust proprio per abuso di posizione dominante e vogliamo sapere dall'antitrust su questa questione cosa ne dice. Ma la cosa anche da mettere in campo e che abbiamo messo in campo, oltre ai comunicati, le interviste che sono andate sui vari giornali che abbiamo fatto rispetto a questa decisione inaccettabile, è quella di arrivare presto a un tavolo dove ci sia una sorta di trattativa, di confronto, di conciliazione per arrivare a ben minori e diciamo così più miti propositi rispetto ai costi delle caselle. Ecco, Trefiletti, come sanno i radioascoltatori che mi seguono, io amo girare a rotazione, far ruotare tutte le associazioni dei consumatori per dare a ciascuno il proprio spazio di parola. E quindi ci può ricordare il vostro indirizzo telematico, il vostro sito internet al quale rivolgersi per saperne di più e anche per indirizzare le proteste dei cittadini abusati? Certamente, perché più che, allora, le proteste vanno benissimo perché ci aiutano. Io preferisco non, diciamo, uscire dal servizio, ma fare prima una battaglia perché, certo, il servizio ritorni nelle condizioni ottimali di come era prima. Questo è il tipo, è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo. E il sito, allora, dunque, il qual è? Il sito è semplicissimo, www.federconsumatori.it, mentre l'indirizzo di posta elettronica, vabbè che si trova sempre sul certo. sito comunque, è federconsumatori@federconsumatori.it. Benissimo, ha fatto bene a ribadirlo, perché comunque è un servizio anche questo che Radio 24 rende. Io ringrazio il nostro radioascoltatore Trefiletti, presidente di Federconsumatori, e ringrazio anche Poste Italiane, anche se non sono intervenute, in regia Filippo Aureggi e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.